sarò per sempre, anche da pezzente. L'amore non volere in cambio niente. Guardiamo l'orizzonte, non c'è descrizione, va oltre. Per la regina della mia corte, adesso mi sento un re, stato messo ad un patto. Tutto questo avrà un finale, nonostante il nostro amore eterno. Mentre questo suono saprò stare elevarmi, alle volte scrivo e mi sento le parti rimembra. Come se fossi da sola, avessi vent'anni fissando da fuori alla finestra. Questo cielo distante che piange, lasciando questo senso di niente che resta incessante, come l'attesa alle poste.